Mare, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Quindicenne del Carso Triestino folgorato su un vagone merci alla stazione di Opicina e grave, trasportato al centro Grandi Ustionati di Verona. Aggredisca una tentata violenza sessuale e un tentato omicidio nello stesso pomeriggio, accaduto il 6 luglio, arrestato il presunto responsabile. L'ondata di maltempo lascia molte belle storie da raccontare, come quella dei volontari del riparo per animali di Carlino che l'hanno rimesso a posto dopo la devastazione del temporale. Traffico da Bollino Rosso oggi, rallentamente code sulla A4, soprattutto verso est, sulla A23 in entrambe le direzioni. Sciopero dei voli, cancellato un collegamento verso Cagliari. Una scuola senza classi fisse sul modello anglosassone, al via la sperimentazione a Meduno da settembre. I dipendenti del settore privato in Friuli Venezia Giulia lavorano 2 mesi in più rispetto ai colleghi del sud Italia, ma è un'illusione che si spiega col lavoro nero, secondo la CGA di Mestre. Basket, girone di ferro per Trieste, Udine e Cividale in A2, nomi nobili della pallacanestro italiana e altre realtà emergenti che daranno del filo da torcere. Buongiorno, benvenuti all'edizione meridiana del giornale radio del Friuli Venezia Giulia della RAI. In studio Livia Liberatore, Antonio Di Bartolomeo che vi parla. Dunque, in apertura, la notizia che avete sentito nel titolo: era alla stazione di Opicina alle 3 di notte con amici, è rimasto folgorato mentre si trovava all'esterno di un vagone merci, in circostanze ancora da chiarire. Un quindicenne residente sul Carso è stato ricoverato in gravi condizioni con ustioni su volto e collo. Ha toccato dei cavi elettrici mentre si stava arrampicando su un vagone del treno, è rimasto folgorato ed è stato sbalzato lontano di un paio di metri. È accaduto la scorsa notte intorno alle 3 nella stazione di Villa Opicina, alle porte di Trieste. Un giovane di circa 14 anni, assieme ad altri 3 suoi coetanei della zona, è entrato in stazione, così hanno dichiarato i ragazzini, per scappare da alcuni cinghiali. Quindi sarebbe salito su una scaletta esterna di un vagone cisterna, rimanendo folgorato da una scarica elettrica. A vedere la fiammata sarebbe stato un ferroviere. I suoi amici avrebbero solo sentito il colpo della caduta. Il ragazzino è stato ricoverato nell'ospedale triestino di Cattinara in gravi condizioni. Avrebbe ustioni di terzo grado sul 15% del corpo, su volto e collo. Sarà trasferito a breve al centro Grandi Ustionati di Verona in ambulanza. Per soccorrerlo è stato necessario staccare la corrente e sospendere temporaneamente il traffico su rotaia. Sul posto sono arrivati ambulanza, automedica, polizia e vigili del fuoco. Sulla dinamica, non ancora del tutto chiara, della vicenda sta indagando la polizia ferroviaria di Trieste. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra le storie legate al maltempo dei giorni scorsi, una arriva da Carlino. Un riparo per animali è stato gravemente danneggiato dal temporale. I volontari lo hanno rimesso a posto in 24 ore. Sono uscita subito appena i cani hanno iniziato a abbaiare in casa, quindi sono corsa fuori a vedere cosa succedeva. E ho visto tettoie che volavano come carte da gioco, che ho detto: Dio, adesso se mi arriva addosso mi decapita. È drammatico il racconto di Michela, che tutti chiamano Miscia, dei momenti peggiori di mercoledì notte, quando il maltempo ha colpito in pieno la sua casa a Carlino e il rifugio degli animali dell'associazione da lei creata e di cui è ora presidente. Negli ultimi 8 anni il sentiero di Ares è diventato un punto di riferimento per chi vuole bene agli animali, non solo a quelli da foto da copertina, in memoria di un cane molto amato. Ospita cani malati e anziani, cavalli da corsa a fine carriera, mucche vecchie che non riescono più a produrre latte. Con qualche difficoltà tutte le bestie sono state portate in salvo, chi all'interno della casa, chi nei pochi recinti rimasti in piedi. Con le strutture distrutte sarebbero serviti mesi per ridare casa a tutti. Invece il Tamtam Social ha convocato decine di amici e simpatizzanti dell'associazione che assieme ai volontari hanno ridotto i danni. La risposta è stata veramente immensa, cioè una cosa incredibile. Sono venute, però mi viene da piangere, sono venute tantissime persone, ci hanno aiutato, siamo riusciti a fare dei lavori che da soli avremmo fatto probabilmente in settimane, mesi, non lo so neanch'io, in 2 giorni. Carlino, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. È in attesa del servizio sulla violenza sessuale tentata su una donna e su un tentato omicidio di Gradisca del 6 luglio scorso, che appunto arriverà a secondi. Vi diamo conto di altre 2 notizie di cronaca. Una è arrivata poco fa, sfondava vetrine con pietre per rubare. I carabinieri arrestano a Trieste un 19enne etiope che secondo le indagini aveva lo stesso modus operandi, danneggiando con frequenza barberie e bar gestiti in particolare da stranieri. Il giovane è stato denunciato quando già era in carcere perché colto in flagranza di reato da due carabinieri fuori dal servizio. Su di lui pendevano già condanne per reati contro il patrimonio. Per la procura coordina le indagini il sostituto Pietro Montrone. Intanto è arrivato il servizio di cui vi dicevamo, un pakistano ora detenuto in custodia cautelare dopo la convalida del fermo da parte del giudice perché si sospetta che sia l'autore della tentata violenza sessuale su una donna a Gradisca e di un tentato omicidio lo stesso pomeriggio il 6 luglio. Sentiamo. Il tribunale di Gorizia ha convalidato il fermo di un 35enne pakistano accusato di tentata violenza sessuale e tentato omicidio a Gradisca di Sonso. I fatti risalgono al pomeriggio del 6 luglio. Una donna di 40 anni stava facendo jogging nella zona di Borgo Trevisan quando è stata bloccata da due cittadini extracomunitari. È riuscita a liberarsi e a sfuggire, anche grazie alle grida di una passante che ha spinto gli aggressori a dileguarsi, ha denunciato la tentata violenza sessuale ai carabinieri. Qualche ora dopo è ritrovata sempre a Gradisca di Sonso, di una persona riversa al suolo e ricoperta di sangue per diverse ferite da taglio, un connazionale pakistano, ospite del centro di accoglienza per richiedenti asilo. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di rintracciare, qualche giorno dopo, il presunto colpevole, il 35enne senza fissa dimora a Udine, mentre era in fila per accedere ad una mensa per persone indigenti. Ieri la convalida del fermo in carcere, come richiesto dal sostituto procuratore di Gorizia, Giulia Villani. A commento di questi fatti, l'assessore regionale all'immigrazione, Pierpaolo Roberti, ha perorato la causa delle riammissioni in Slovenia, a suo dire strumento efficace per non subire un flusso migratorio senza controllo. Queste però sono state riconosciute illegittime già due volte da un tribunale di Roma, soprattutto per la mancata emanazione di un provvedimento amministrativo che possa essere impugnabile. Sullo sfondo, un cortocircuito politico nei giorni in cui il presidente Federica definisce l'accoglienza diffusa un grande fallimento, scagliandosi anche contro i grandissimi centri come quello di Gradisca, mentre il collega del vicino Veneto, Zaia, chiede di privilegiare l'accoglienza diffusa alla luce di un sistema di rimpatri ridotto a colabrodo. In Friuli Venezia Giulia, secondo i dati del Viminale, ci sono oltre 4.000 migranti nei centri di accoglienza, 247 nel sistema di accoglienza e integrazione, costituito dalla rete di comuni e del terzo settore. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ha rischiato di morire per un'infezione da stafilococco un giovane migrante che nei pressi della stazione ferroviaria di Trieste aveva una gamba gonfia e febbre alta, lo rende noto l'associazione Linea d'Ombra che da tempo si prende cura di chi arriva dalla rotta balcanica, talvolta in condizioni di salute difficili. Il 17enne è stato portato al Burlo Garofolo dopo che un ferroviere ha chiamato un'ambulanza avendolo visto sofferente. Traffico intenso sulla rete autostradale della regione, giornata da bollino rosso sulla A4 Venezia-Trieste fino al tardo pomeriggio. Al momento i punti critici sono alla barriera dell'Isert in direzione Trieste, dove il traffico è rallentato. Ci sono code anche tra San Giorgino Garo e Bivio A4 in direzione di Trieste, rallentamenti al casello di Lignano in entrata e uscita, e sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione sud prima del nodo di Palmanova ci sono rallentamenti dovuti a un mini tamponamento avvenuto in mattinata. Situazione critica anche la barriera di Ugovizia, dove ci sono code in entrambe le direzioni. Secondo le previsioni della società autostrade Alto Adriatico, i transiti oggi potrebbero raggiungere quota 200.000, meno intenso ma comunque di rilievo il traffico domani. Il bollino non sarà rosso ma arancione. E dopo lo sciopero di due giorni fa dei treni, oggi tocca agli aerei. C'è già un volo cancellato da e per Trieste, si tratta di un Ryanair che collega Ronchi dei Legionari con Cagliari, doveva atterrare alle 13.25 e decollare alle 13.50, al momento non si registrano altre cancellazioni. Trovati i rifiuti pericolosi nei capannoni dell'ex fornace di Reana del Royale, invece di essere smaltiti correttamente, erano stati lasciati abbandonati su una vasta area, ora sottoposta al sequestro. Manderemo più avanti il servizio, intanto andiamo avanti con il giornale radio. A Paluzza si terrà una manifestazione di protesta contro il progetto di costruzione di 4 nuovi impianti a metano della società italiana Oleodotto Transalpino SIOT in regione. La protesta è organizzata dal coordinamento regionale Stop SIOT, che riunisce diversi comitati. Il appuntamento è alle 17 a piazza 21-22 luglio a Paluzza, e arriva davanti, il corteo arriva davanti al locale sede della SIOT. Vediamo il tempo: cielo sereno sulla regione, le temperature registrate alle 11 a Trieste 27 gradi, mare calmo con temperatura di 26 gradi, a Pordenone 28 gradi e mezzo, a Udine e Gorizia 29, sul Piancavallo 20 gradi, a Sappada 22 e mezzo, a Forni di Sopra 23 e mezzo, a Tolmezzo 25 gradi e mezzo, a Tarvisio 26, sul Monte Lussari 17 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolano 19 e mezzo. Sulla costa a Grado 27 gradi con temperatura del mare di 26 gradi, a Lignano 27 gradi con temperatura del mare di 27 gradi. Le previsioni nelle prossime ore: cielo in prevalenza sereno con venti in regime di brezza, sui monti il pomeriggio sarà possibile qualche modesta nuvolosità, farà un po' più caldo rispetto ai giorni precedenti, ma ancora abbastanza secco. A Meduno partirà a settembre una scuola senza classi fisse sul modello anglosassone. Gli studenti avranno compagni di classe diversi per ogni materia. Ragazzi, genitori e nonni stanno ritinteggiando l'istituto insieme in un gesto volontario che unisce la comunità. La nuova scuola secondaria di primo grado di Meduno è ancora tutto un cantiere. Da settembre sarà organizzata sul modello didattico per ambienti di apprendimento, il cosiddetto modello DADA, una quindicina di aule dedicate, ognuna con un colore diverso e personalizzata. A dipingere le prime cinque aule in queste settimane sono gli insegnanti con gli studenti ed ex studenti, i loro genitori e qualche nonno. Hanno anche comprato i colori con il ricavato di due mercatini, una vera e propria economia circolare, ma anche una scuola che fa comunità. Monica Sbruniera è uno dei referenti del progetto. Cosa cambia in questa scuola per i ragazzi? Accresce l'autonomia, la responsabilità, con un coinvolgimento diretto degli alunni che sono parte attiva nel realizzare la loro scuola come un luogo più bello per l'apprendimento. Il nuovo ambiente educativo coinvolgerà anche l'ambiente circostante, creando un legame ancora più forte tra scuola e territorio. Il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo delle Valli, di cui questa scuola fa parte, Nicola Redi. Ci credono anche gli insegnanti che vengono da più lontano? Sì, soprattutto motivo d'orgoglio questo, i docenti che abitano lontano hanno deciso di sposare di questo progetto, si sono riconosciuti nell'identità di questa scuola e sono rimasti anche il prossimo anno, pur avendo delle scuole vicino a casa, sono rimasti nel nostro plesso, e questo per noi è un motivo di orgoglio. Serve inoltre questo, il progetto DADA che è stato decantato ora, serve anche a farsi di essere attrattivi verso gli studenti, in maniera da non perdere il numero di alunni, cosa che per un istituto di montagna è fondamentale. Ecco, sul fronte alunni come siete messi quest'anno? Fronte alunni in termini assoluti abbiamo confermato i numeri dell'anno scorso, questo ci riempie di soddisfazione. Abbiamo dovuto organizzare due pluriclassi in più perché nelle vallate i ragazzi sono distribuiti in maniera differente rispetto all'anno scorso. Meduno, Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport con il calcio. Definito il quadro delle amichevoli estive dell'Udinese, primo impegno fissato per mercoledì prossimo contro il Klagenfurt, formazione della terza serie austriaca, alle 18 presso lo Sportzentrum Fisch di Klagenfurt. Per il calciomercato da segnalare il congedo del Tucu Pereira dal calcio italiano, non lascia solo l'Udinese ma proprio la Serie A. Il centrocampista argentino andrà a giocare in Turchia con il Besiktas, mentre torna in Italia una vecchia conoscenza dell'Udinese, il portiere friulano Simone Scuffet. L'estremo difensore, dopo una buona stagione con il Cluj in Romania, è stato messo sotto contratto dal neopromosso Cagliari. Primo grande colpo di mercato della Triestina, manca solo l'ufficialità, arriva dal Pescara Facundo Lescano, attaccante argentino capace di segnare 20 gol nella sua passata stagione. Per il suo cartellino la società abruzzese chiedeva 600.000 euro, cifra di tutto rispetto per la Serie C. È un girone davvero rosso quello che attende le squadre regionali di basket nella prossima due i gironi da 12 squadre ciascuno, insieme a Trieste, Udine e Cividale. Ci sono la Fortitudo Bologna, Forlì, Piacenza, Rimini e Verona, citando per prime le società di maggior lignaggio, ma anche il resto del lotto non è trascurabile, comprende Cento, Chiusi, Nardò e Orzinuovi. Nel girone verde il Consiglio federale ha messo Agrigento, Cantù, Cremona, Latina, Urania Milano, Monferrato, Rieti, Roma, Torino, Trapani, Treviglio e Vigevano. Il termine fissato per la compilazione del calendario è il 2 agosto. Intanto l'APU ufficializza il contratto con Lorenzo Carotti, playmaker livornese classe 95, specialista in promozioni dalla A2. Entra nel vivo il Trieste Cliff Diving, la manifestazione di tuffi dalle grandi altezze che si svolge proprio davanti a Piazza Unità d'Italia, dove è stata installata un'apposita struttura. I tuffatori più esperti e pluripremiati a livello internazionale, una decina, si sfideranno dalle ore 16. Domani l'appuntamento si concluderà alle 10 con una dimostrazione di tuffi con atleti diversamente abili e alle 12 con una conferenza sul Molo Audace. Lo spettacolo è gratuito ed è organizzato da Gabriele Auber, ex tuffatore della nazionalità italiana, e da Nicolas Farfoglia, presidente della Triestina Padel, coorganizzatore il comune di Trieste. Atletica leggera è stata, come nell'attese, il bozzuano Letsile Tebogo, la stella del meeting internazionale Sport e Solidarietà di Lignano. Diverse le prestazioni di buon livello come la sua. Ci racconta com'è andata la storica voce della RAI per l'atletica, Franco Bragagna. Letsile Tebogo, un campione. Grande talento il ragazzo del Botswana, arriva in Friuli e prova i 400 metri, lui che è da finale olimpica e mondiale, anche sui 100 e 200. Sul giro aveva provato una volta sola, sopra i 46 secondi. Stavolta il ventenne fa 44,73 e vince 8 centesimi meglio di Rashan McDonald, Giamaica. Ma il meeting Sport e Solidarietà a Lignano Sabbiadoro ha proposto anche grande mezzofondo. 34esima edizione, sempre orchestrata dalla Nuova Atletica del Friuli. 800 la bella corsa e vittoria con 1,44,29 per il britannico Daniel Roden. Spazio anche Italia. Il livornese di origine Mozambico, João Bussotti, fa il suo primato sui 1500, secondo in 3,35,64, un secondo dietro all'americano Joe Wascom. Il vicentino Manuel Lando vince il salto in alto sulla pedana intitolata da Alessandro Talotti, che manca a tutti. Lando fa due primati, prima 2,22 e poi 2,25. 400 ostacoli alla memoria di Ottavio Missoni. Lo stilista questa gara correva. Vittoria e trofeo Missoni all'inglese Seamus Derbyshire, 50,08, 12 centesimi sul brianzolo Mario Lambrughi. Salto in lungo ed della serba Ivana Španović-Vuleta, a vincere con 6,77 e poi, capendo lo spirito della manifestazione, va a premiare i ragazzi Special Olympics. I 100 targati Giamaica, 10,11 di suo primato per Rohan Watson. Gli spettacoli ai laghi di Fusine per il festival No Borders. Torna Ben Harper a grande richiesta dopo l'esibizione del 2018. Quest'anno la sua famosa chitarra e la sua voce limpida e calda saranno accompagnati dai The Innocent Criminals, la band percussioni, basso, batteria e chitarra protagonista della maggior parte dei progetti dell'artista californiano. Il concerto inizierà alle 14. Piazza Unità a Trieste arriva stasera Biagio Antonacci con il suo nuovo tour estivo dopo 3 anni di assenza dai palchi italiani. Il cantautore milanese, insieme a un gruppo di 8 elementi, porterà sul palco i brani che hanno segnato i suoi 35 anni di carriera. Inizio del concerto alle 21:30. Per l'occasione saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità, con divieto di transito sulle rive dalle 20 in entrambe le direzioni e chiusura al transito pedonale dalle 18 in Piazza Unità. A Capodistria per Folkest è atteso stasera il concerto di Enrico Ruggeri, che proporrà un excursus su tutto il suo variegato repertorio e alcune anticipazioni dal prossimo album. Appuntamento al Magazzino del Sale in Piazza Carpaccio alle 21, ingresso gratuito. Riapre al pubblico l'ipogeo celtico di Cividale dopo un periodo di chiusura dovuto prima alla pandemia e poi alla realizzazione di alcuni interventi tecnici. Il misterioso complesso sotterraneo sarà visitabile fino a settembre con gli speleologi del Collegio Regionale delle Guide Speleologiche, il sabato, domenica e festivi, con partenza alle 10 ogni ora, dall'informa città di Piazza Duomo. Ne abbiamo parlato con il presidente del Collegio degli Speleologi, Alessandro De Santis. L'ipogeo celtico è sicuramente una parte interessante della storia di Cividale. C'è questa cavità sicuramente rimaneggiata in parte artificiale, probabilmente anche in parte naturale, dove le storie di Cividale hanno passato periodo lì dentro, no? già dall'epoca romana, dal periodo celtico, forse anche prima, e con varie vicissitudini. Viene riaperto con la lungimiranza del comune in Cividale, che ha avuto la volontà di riaprirlo, e affidando gli accompagnamenti al Collegio delle Guide Speleologiche del Friuli Venezia Giulia, che come collegio poi abbiamo aderito, insomma, in maniera molto felice, perché è un luogo sicuramente magico. Gli ultimi lavori in che cosa sono consistiti? C'è stata la messa in opera delle luci, che sicuramente vanno a esaltare quelli che sono alcune caratteristiche interne. Abbiamo questi mascheroni scavati proprio nella pietra, queste ghiaie del fiume. Queste luci vanno ad esaltarle e quindi saranno sicuramente molto ben visibili. E poi le guide che accompagneranno racconteranno anche parte della storia dell'utilizzo dell'ipogeo stesso e di quelle che sono gli studi che sono stati fatti dentro e le ipotesi che sono state fatte sull'utilizzo negli ultimi 2000 anni, insomma. In onda domani mattina su queste frequenze, dopo il notiziario delle 8:30, il consueto appuntamento con Vita nei Campi. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura il recupero e valorizzazione dei gelsetti in Friuli Venezia Giulia. A seguire c'è un nuovo parassita che mina i nostri pomodori. I consigli per contrastarlo senza fare troppi danni all'ambiente. Nella rubrica del vino il controllo della fermentazione alcolica con l'ossigenazione del pigiato. Avremo poi per la rubrica dei forestali seconda puntata sulla presenza dei lupi nei boschi regionali. A seguire i lavori in orto e le cure da riservare ai meloni coltivati e per la rubrica della gastronomia la versione nostrana della mille foglie, ovvero la sfoiata carsolina. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E prima di chiudere un aggiornamento sulla situazione del traffico, ci sono 2 chilometri di coda alla barriera di Trieste e l'Isert in direzione est, quindi verso Trieste, proprio verso est che si convoglia la gran parte del traffico. Ci sono code in corrispondenza del bivio di Palmanova, tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, appunto code in uscita alla Tisana e code anche tra San Stino di Livenzo e la Tisana, proprio per traffico intenso. Poi altri 3 chilometri di coda tra Tarvisio Nord e Ugovizza per traffico congestionato. Le code sono sia verso nord e sia verso sud. Questa è la situazione dunque in questo momento sulle autostrade della regione. Ricordiamo una giornata da bollino rosso per quanto riguarda il traffico. È davvero tutto per questa edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, edizione meridiana, redatta e condotta da Livio Liberatore, Antonio Di Bartolomeo. Ringraziamo per la parte tecnica Roberto Cavalari e Bruno Montevecchi, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Noi vi diamo appuntamento per il pomeriggio, l'edizione del sabato è alle 14:30, l'invito è a seguirci anche sul nostro sito rai.it, TGR FVG. Un buon proseguimento di giornata e di ascolto a tutti voi. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.